Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Hai presente, Chiara, quello sguardo del maiale quando ti fissa? Sì, così ipnotizzante, così intenso, sì. Ecco, questa è la definizione giusta. Come diavolo ci vedrà? Va bene, cominceremo da questo. Benvenuti a Mebius, adesso i titoli e poi appunto come ci guardano gli animali. Che differenza c'è tra il mondo visto da un pulcino, da un cane e da un'ape? È la domanda che ci arriva questa settimana da Domenico, un nostro ascoltatore. Per un pesce bruttino è più conveniente andare in giro con compagni più brutti di lui. Può servire per attirare più femmine? Lo hanno studiato un gruppo di ricercatori di Padova. Dalla robotica alle smart city, siamo immersi e soprattutto lo saremo nei prossimi anni in ambienti tecnologicamente intelligenti. Dobbiamo pensare a come tutto questo ha bisogno di leggi e regolamenti. Si mettevano il rossetto e morivano di avvelenamento da mercurio, o si curavano con veleni. È quello che capitava alle nobili donne europee di molti secoli fa. No, prima dicevo come ci guardano gli animali, sembra dal punto di vista psicologico, no? Proprio come ci vedono con i loro occhi. Sì, andremo ad indagare proprio la vista degli animali. E perché lo faremo? Perché ovviamente ci è arrivata una domanda di un curioso ascoltatore, Domenico, ma ora ci arriviamo. Federico, ricordiamo i contatti attraverso i quali gli ascoltatori possono continuare a seguirci e a mandarci le loro domande. Comincio con Twitter, che abbiamo quanti? Quasi 32.000 follower, ne mancano proprio 9, mi sembra. Moebius _ _online. Forza. Poi Facebook ci trovate sotto Moebius Scienza. E poi ovviamente la cara vecchia mail moebius@radio24.it. Ora che dici? La domanda. La parola a Domenico. Io so che i gatti vedono in bianco e nero, ma come si fa a studiare la vista degli animali? Il coccodrillo, per esempio, al di là del gatto. Sì, poi ci sono studi sugli ungulati. Il nostro esperto addirittura ha fatto esperimenti su pulcini, cani, api, ma adesso ci facciamo raccontare. È un esperto che noi chiamiamo abbastanza spesso perché è un neuroscienziato abbastanza noto in Italia, anzi diciamo che è un luminare del Centro Mente Cervello di Trento. È qui con noi il professor Giorgio Vallortigara. Buonasera. Buonasera. Buonasera Vallortigara. Io direi, cominciamo a rispondere a Domenico. Come si fa a capire come vedono gli animali? Si utilizzano dei metodi di studio di tipo comportamentale, che sono piuttosto semplici, sono basati sull'apprendimento associativo, cioè sul fatto di condizionare una risposta a certe caratteristiche dello stimolo. Supponiamo, voglio sapere se un animale è capace di distinguere un triangolo da un cerchio. Come faccio? Metto sopra due scatolette, su una ci metto un triangolo, su una ci metto un cerchio. Supponiamo che il mio animale sia un piccione. Gli insegno, inizialmente metto qualche granellino di cibo sopra la figura, che tutte le volte che becca sul triangolo si apre un cassettino e riceve un po' di cibo come premio. Tutte le volte che becca sul cerchio invece no. Posto a caso a destra e a sinistra i due stimoli in modo di essere sicuro che lui risponda davvero alla forma e non a qualche altra proprietà, per esempio la destra e la sinistra, e dopo un certo numero di prove, se è capace di farlo, l'animale imparerà sistematicamente a scegliere la caratteristica corretta. Posso usare la stessa procedura per qualsiasi variabile, per il colore, per la forma, per la lunghezza, per le dimensioni. Questo per esempio per quanto riguarda i colori, no? Però poi ci si interroga sulla forma, no, degli occhi, per esempio quella degli insetti, che sono degli occhi grandi. Multipli. E anche per capire quanto in profondità e nel dettaglio vedono. Noi diciamo, lo si legge regolarmente, insomma, che per esempio i felini hanno una, o l'aquila che riesce da una vista molto acuta. Come si riesce, certo, a capire queste altre anche funzioni? Anche in questo caso il trucco consiste nel porli di fronte a stimoli in cui viene variato sistematicamente l'aspetto che si vuole studiare. Per esempio, consideriamo l'acuità visiva. Possiamo fare dei semplici quadratini con delle strisce grigie, per esempio bianche e nere, o di varie tonalità di grigio, e poi modificarle pian pianino fino ad un punto in cui, per esempio per noi osservatori umani, quello diventa un grigio uniforme, cioè in cui non possiamo più riconoscere le striature. Ecco. La stessa procedura può essere utilizzata con le tecniche che vi descrivevo prima, e cioè becca oppure muovi la zampa oppure fai un qualche tipo di azione sullo stimolo dove tu vedi delle strisce orizzontali. Arriverà un punto in cui l'animale non vede più le strisce orizzontali perché è diventato tutto grigio e quindi risponderà a caso. Punto corrisponde alla sua soglia di discriminazione per l'acuità visiva. Una previsione che si può fare, per esempio, per quello per gli animali che sono predatori e se sono predatori a breve o a lunga distanza. I gatti, che sono predatori a breve distanza, non hanno un'acuità visiva straordinaria, i falchi ce l'hanno assolutamente fantastica. Alcuni miti sono stati sfatati, per esempio ce n'è uno famoso relativo alla lince, che avrebbe una vista molto acuta, da cui il nome della famosa Accademia dei Lincei. In realtà proprio l'attuale presidente dell'Accademia dei Lincei, il professor Lamberto Maffei, anni fa aveva condotto uno studio molto interessante in cui aveva mostrato che la lince, che è in effetti una specie di gattone, un animale che è un predatore crepuscolare, non ha una vista particolarmente acuta. E infatti, per la sua esperienza, magari so che lei studia particolarmente i pulcini, ma anche i cani, le api, così, ci fa qualche esempio di come vedono questi animali? Gli insetti, naturalmente, oltre ad avere un sistema visivo periferico diverso, nel senso che non hanno un occhio a camera ma hanno un occhio composto, presentano varie caratteristiche di diversità, innanzitutto per quello che riguarda la sensibilità nello spettro elettromagnetico. Noi grosso modo vediamo nel cosiddetto spettro del visibile tra 700 e circa 780 nanometri e quindi non vediamo, non abbiamo un'esperienza nell'ambito dell'ultravioletto ad un'estremità e nell'ambito dell'infrarosso. Molti insetti invece hanno una sensibilità nello spettro dell'ultravioletto e questo dal punto di vista soggettivo noi non sappiamo che cosa voglia dire, in effetti non abbiamo modo di esperirlo direttamente. Possiamo fare quei giochetti che si vedono nei libri naturalistici in cui si fa vedere come ad un'ape appare un certo fiore, traducendo l'ultravioletto nell'ambito dei colori o dei grigi che possiamo vedere noi, però sono non corrisponde davvero all'esperienza dell'ape. I cani? E per parecchio tempo si pensava che non vedessero i colori, in realtà i cani possiedono solo due tipi di coni, ci sono due tipi di recettori nella retina dei vertebrati, i coni e i bastoncelli. I coni sono quelli che servono a vedere il colore. Noi abbiamo un sistema tricromatico, abbiamo tre tipi di coni, mentre invece i cani posseggono due tipi di coni per le lunghezze del blu-violetto e del giallo. E quindi questo è il motivo per cui loro hanno difficoltà con il rosso e con il verde, che probabilmente percepiscono insomma con difficoltà le sfumature di un bosco in autunno, non devono essere molto chiare ad un cane. Però non è vero che non vedono i colori, hanno un sistema dicromatico, vedono alcuni colori ma non vedono gli stessi colori che vediamo noi, che so, i piccioni, i pulcini, questi animali qua hanno un sistema pentacromatico e quindi vedono colori che noi non vediamo. Un mondo arcobalenissimo. Chissà poi cosa se ne fa una gallina, ma comunque. È tantissimo, ma se si pensa per esempio alle caratteristiche del piumaggio, che sono così importanti la scelta del partner sessuale, e lì molto del piumaggio riflette nell'ambito dell'ultravioletto e deve essere molto importante per scegliere un bel gallo. A livello evolutivo tutto torna. Grazie mille, professore, davvero interessante. Grazie, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ti metti il rossetto e ti senti male? No, beh, non può essere. Però fu così. Nel senso che, vabbè, parliamo di paleorossetti. In realtà il discorso è più ampio. Parliamo di paleopatologie in generale, perché abbiamo qui davanti a noi un bell'articolo del Corriere che è uscito, mi sembra, domenica scorsa. Che si intitola "Rimedi peggiori delle malattie per le nobili rinascimentali". Qui ovviamente si parla di nobili donne del nostro rinascimento, ma in realtà, diciamo, si può fare anche un discorso più ampio. E l'articolo inizia appunto raccontandoci qualche trucco che utilizzavano le donne per farsi belle. Farsi più belle, quindi varie. Il rossetto proprio, il rossetto rosso che derivava dal cinabro, che è un minerale rosso da cui si estrae il mercurio, non era proprio salubre per le nostre antenate. Ti cadevano i denti, non so, adesso ce lo so. Dava quasi un principio di avvelenamento. Comunque adesso noi sentiamo l'esperto, che è stato sentito anche qui nell'articolo del Corriere, che è il direttore della divisione di paleopatologia dell'Università di Pisa. Diamo il benvenuto a Gino Fornaciari. Buonasera, professore. professore. Buonasera. Buonasera a lei. Ecco, allora, diciamo che c'è tutta una parte legata appunto a questa storia dei cosmetici da cui si parte, però in realtà poi magari ci allarghiamo, facciamo un discorso più ampio. I cosmetici sono un po', diciamo, una scusa per entrare nei trattamenti anche medici rinascimentali, del Rinascimento e anche di altre epoche. Però era vero che erano carichi di mercurio? Assolutamente sì, il rosso per labbra a base di cinabro è un tale di mercurio, è un minerale del mercurio, quindi pericolosissimo per la salute umana e che doveva dare delle conseguenze anche piuttosto di che genere? Buone, insomma. Che cosa succedeva? Attraverso questi cosmetici, ma non solo ovviamente il cinabro, anche le bacche, soluzioni a base di mercurio, eccetera, la cute assorbiva questi metalli pesanti, il mercurio, ma anche il piombo, eccetera, e questi potevano arrivare a livelli molto alti fino a raggiungere livelli tossici. Quindi, ad esempio, il mercurio provocava una stomatite molto grave, perdita di denti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, non è che sia così... Il piombo va anche al cervello, no? Può creare anche danni al cervello. Assolutamente, sì, dà anche una specie di psicopatia mercuriale e anche saturnina, perché usavano anche il piombo, ovviamente. Quindi, insomma, questi rimedi, questi cosmetici erano da evitare. In realtà sappiamo che, ad esempio, le dame della corte di Elisabetta I, che si sbiancavano la cute con... Ecco, sì, usava molto avere la pelle candida. La stessa Lunana è molto pallida, no? Era una specie di... Lunari erano, no? Sì. E lo sapevano bene che dopo un po' che usavano questi sbiancanti, queste pomate, queste soluzioni biancanti a base di mercurio, poi avevano dei problemi con i denti e quindi li perdevano. Però non si associava, cioè non riuscivano ad associare più di tanto, quasi no, niente. No, continuavano nella loro pratica, poi insomma per essere belli, insomma, un poco bisognava soffrire come ora. Ecco. Come ora, sì, non c'è nulla di nuovo. Quindi. E voi avete fatto delle approfondite ricerche su queste nobildonne in particolare perché insomma ci sono tanti corpi, ecco è brutto da dire, a disposizione, quindi tante mummie, corpi sui quali fare ricerca. E lì avete scoperto altre cose interessanti sulle patologie di quel tempo e anche ovviamente al di là del trucco precedenti. Sì, ovviamente la paleopatologia si interessa delle malattie del passato, studia le malattie direttamente nei corpi umani del passato con le tecnologie biomediche moderne, quindi abbiamo scoperto di tutto, da malattie infettive a tumori, appunto a intossicazione da mercurio o anche da piombo e così via, quindi un quadro malattie articolari, un quadro completo di questa classe sociale elevata e di queste nobildonne, le quali sono interessanti soprattutto perché c'è un riscontro anche letterario nei documenti, quindi mentre negli studi paleopatologici normali, insomma, tra virgolette, di personaggi sconosciuti o anche di rango non elevato, eccetera, possiamo fare diagnosi di malattia, di cancro, di tubercolosi, eccetera. Con le nobildonne, soprattutto queste del Rinascimento che abbiamo studiato, che sono le nobildonne della corte medicea di Firenze, delle granduchesse, eccetera, o della corte spagnola, aragonese di Napoli, abbiamo un riscontro letterario, cioè le cronache proprio, le lettere. In altri termini, abbiamo... A volte c'è la lettera della nobildonna che descrive proprio la sintomatologia che ha, è un materiale splendido, insomma, certo, a confrontare con quello paleopatologico. Certo, ma qual era una, due, non lo so, di patologie tipiche connesse alle condizioni, diciamo, culturali e le abitudini dell'epoca, che poi probabilmente per il semplice fatto che sono cambiate queste routine di vita sono scomparse. Che tipo di malattie c'erano? Diffuse. Sì, ma nel Rinascimento, soprattutto in era preantibiotica, ma soprattutto nel Rinascimento, le malattie infettive. Ad esempio nel corso del Cinquecento, alla fine del Quattrocento e nel corso di tutto il Cinquecento ci fu la grande epidemia di sifilide venerea. Venerea. Colpì ovviamente tutte le classi sociali e di cui abbiamo trovato riscontro appunto in alcune nobildonne di quest'epoca. Ad esempio Maria d'Aragona, vissuta nella la corte napoletana alla finalità del Cinquecento, e ultimamente c'è una scoperta ancora più recente durante, che abbiamo fatto due mesi fa, durante la desumazione di Giovanni dalle Mande Nere, famoso condottiero rinascimentale, sua moglie, abbiamo scoperto che la Maria Falgiati, la moglie di Giovanni, era affetta da sifilide allo stadio terziario, quindi sifilide già ostea, è aumentata la casistica paleopatologica di questa malattia, che era estremamente diffusa. Infatti lo stile di vita, le condizioni ambientali facevano sì che ci fossero delle malattie che colpivano le nobili donne, e a differenza invece delle donne di ceto inferiore, oppure erano trasversali. Perché mi viene da pensare anche al tipo di alimentazione, che poteva essere molto diversa, al tipo anche di mestiere che veniva fatto dalle donne, quelle di ceto più basso. Ma dunque le malattie infettive, cioè come appunto la sifilide venerea, la tubercolosi, quelle colpiscono tutti. Erano trasversali, perché certo, è chiaro, colpivano tutte le classi sociali. Forse per quello che riguarda la tubercolosi e altre malattie infettive, le classi superiori avevano una difesa maggiore perché avevano una buona alimentazione, insomma difese immunitarie migliori rispetto ai contadini e alle classi inferiori. Per quello che riguarda invece le malattie relative allo stile di vita, alle abitudini, eccetera, è chiaro che c'è una notevole differenza. Mentre le classi inferiori, i contadini, eccetera, avevano quadri di patologie articolari molto più gravi rispetto alle classi superiori, o di un certo tipo, diciamo, diverso, dovuto allo stress continuo, dovuto all'attività lavorativa. Le classi superiori avevano ad esempio un'artrosi, soprattutto le nobili donne in questo caso, una malattia articolare meno avanzate, meno gravi, perché lo stile di vita era molto più tranquillo, insomma, anche se non era uno stile di vita assolutamente sedentario, come uno potrebbe pensare. Ci vengono in mente le nobili donne successive, quelle del Settecento, della corte di Luigi XIV, di Luigi XV, non era così. Le nobili donne rinascimentali avevano una vita abbastanza attiva, andavano a cavallo, eccetera, eccetera, però è chiaro che erano meno stressate dal punto di vista dell'attività fisica muscolare rispetto alle contadine, ecco. Quindi c'è una differenza dovuta alla classe. Anche a quello. Siete anche riusciti a capire qual era la vita media? Sì, quello è un dato antropologico comune che viene stabilito correntemente, e chiaramente le nobili donne non facevano eccezione rispetto alle popolazioni dell'epoca di età precontemporanea, e c'era una mortalità notevole durante il periodo fertile, quindi dovuta al parto. Sì. Quindi fra i 20 e i 30 anni c'era un picco di mortalità notevole. Poi dopo, se aveva una mortalità inferiore, una volta superato questo rischio, le nobili donne in genere campavano di più dei mariti, perché i mariti erano esposti a altri problemi bellici, soprattutto di combattimenti, tornei, eccetera. Quindi lo stile di vita era molto rischioso, e quindi una volta superato i 30 anni le nobili donne vivevano di più. Sì, però 45-50 anni era un bel risultato. Era già buono, sì, era già un ottimo alto risultato, anche se chiaramente sulle tabelle demografiche, la demografia, incide moltissimo la mortalità infantile. Si deve pensare che, ad esempio, su 100 bambini la mortalità a 5 anni arrivava anche al 40-50%, quindi una mortalità estremamente alta, e che abbassava la vita media delle popolazioni antiche, comprese quelle dei nobili. Professore, mi sembra che alcune malattie, tipo il papillomavirus, i tumori, che ci sembrano così attuali, in realtà esistessero già allora. Esistevano assolutamente, c'erano, anche se solo in questi ultimi anni siamo riusciti a diagnosticarli bene. Ecco, sì. Ad esempio abbiamo trovato un caso di HPV, cioè di infezione della papillomavirus, che è un'infezione, come si sa, anch'essa sessualmente trasmessa. Abbiamo trovato il virus addirittura in una mummia rinascimentale, e anche sempre nelle mummie rinascimentali, però in questo caso in un individuo maschile, abbiamo tipizzato e anche sequenziato il DNA di un tumore dell'intestino, che è stato studiato a fondo, e si è visto che la mutazione molecolare che aveva provocato il tumore, ora non entro nell'aspetto tecnico, era dovuta alla smodata alimentazione che questi individui avevano nei confronti della carne. Ne mangiavano in enorme quantità carne rossa, e come si sa la carne rossa, abbrustolita, al fuoco, insomma la brace, eccetera, sì, produce delle sostanze cancerogene, e in questo caso, in questo sovrano, che è Fernante d'Aragona, provocarono un carcinoma, un cancro dell'intestino. Ed è stata una scoperta notevole, molto importante, perché si è visto che queste mutazioni acquisite, che sono frequenti purtroppo nella nostra epoca, lo erano anche allora, non è un dato di grande importanza anche medica. Va bene, grazie professore, davvero interessante. Una ricerca affascinante, grazie, buon lavoro. Insomma, ringrazio molto, spero di essere stato chiaro. Sì, chiarissimo, sì, grazie, buon lavoro. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Prima di trasportarci a Tokyo nel 2029, potremmo scegliere questa data, 2030, vi presento i miei ospiti. Qua in studio ho Chiara Boscarato. Buonasera. Buonasera. Buonasera Chiara. Dottoranda, e tu lavori al ECLT, sì, di Pavia. Che dell'Università di Pavia. Andiamo a definire che cos'è questa sigla. E invece al telefono c'è Amedeo Santosuoso. Buonasera Santosuoso. Buonasera, buonasera. Giurista, giudice al Tribunale di Milano, ma soprattutto coordinatore di questo centro, l'ECLT di Pavia, che lavora su tutte queste relazioni complesse, adesso poi lo vedremo più nel dettaglio, che riguardano tutto l'insieme delle nuove tecnologie e il problema di un governo giuridico e anche la creazione di regole. Comunque, dicevo, Giappone 2029-2030, Boscarato. Allora, perché andiamo in Giappone? Andiamo in Giappone perché di questi anni, non da molto, credo forse dal 2010, il Giappone oggi ha varato un grande progetto, sono circa credo 30 miliardi di dollari, per arrivare alla badante robotica, quindi con un robot che è in grado di avere delle funzioni di assistenza a persone che per esempio sono in casa e sono con gravi problemi di disabilità. Lo scenario che creiamo è quello di una badante che ha in cura una persona che insomma, ha veramente bisogno di molta assistenza, addirittura ha un problema di respirazione, no, artificiale, e la badante. Va bene, questa persona, l'abbiamo detto, è molto ricca, e ha un parente cattivo, un nipote che potrebbe usufruire dell'eredità. Cosa succede? Possiamo ipotizzare che il nipote intenzionato, il cattivo intenzionato a riscuotere in via anticipata l'eredità della zia, si introduca a nottetempo nell'abitazione e tenti di manomettere, ad esempio, il respiratore artificiale a cui è legata questa persona. Esatto. Certo, tagliare i tubi, per esempio, oppure manomettere, certo, più sottilmente, fingendo che quindi possa essere un incidente. Va bene. Esatto. In un futuro così avanzato, possiamo presupporre che il robot badante sia stato progettato in modo da essere in grado di adempiere perfettamente alle funzioni assistenziali sulla signora. E possiamo presumere anche che sia stato progettato con un codice etico di condotta che rispecchia, ad esempio, le tre leggi di Asimov, le famose tre leggi della robotica. Per cui, secondo la prima, un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. Dei danni. Per cui il robot è obbligato dalla prima legge di Asimov a intervenire in difesa della sua padrona, per così dire. Di conseguenza, il robot interviene e fa di tutto per evitare che il malintenzionato stacchi il respiratore. E lì può succedere un po' di tutto, anche una colluttazione. Insomma, ecco, si potrebbe addirittura arrivare a conseguenze gravi, no? Il conseguenze gravi per il futuro erede, diciamo così. Certo, esatto. E lì addirittura si apre uno scenario penale, sì, sul quale addirittura, insomma, bisogna capire molto di più. Noi potremmo fermarci a quello civile, no? Perché sì, ci sono dei danni in casa, insomma. E lì il problema è chi? Sì, il problema è chi risponde dei danni derivati alla persona fisica dell'aggressore, in questo caso, perché l'aggressore potrebbe chiedere un risarcimento dei danni in via appunto di responsabilità extracontrattuale. Certo. c'è un'azienda, c'è il padrone del robot, certo. Il robot stesso mi sembra un po' difficile. Un po' azzardato, certo. Questo è il problema. Generalmente quando si tratta di danni provocati da macchine e da robot, la prima cosa che viene in mente è la responsabilità del produttore, secondo le norme contenute nel nostro codice di consumo. Mm. In realtà noi presupponiamo che il robot non abbia nessun difetto di fabbricazione, perché dalla dinamica che ci siamo immaginati non emerge nessun difetto di fabbricazione, per cui la responsabilità del produttore è fuori gioco. In seconda battuta potremmo pensare a una responsabilità del proprietario e dell'utilizzatore, in questo caso la signora difficile bisognosa. È difficile da pensare, però certo. È difficile da pensare, non tanto da un punto di vista civilistico, perché è la persona che ha di fatto il potere di controllo sulla macchina, che è vista come cosa dall'ordinamento. Ma in realtà l'utilizzatore ha impostato correttamente le opzioni del robot, che infatti ha eseguito correttamente il proprio compito assistenziale anche rispetto a una legge, diciamo così, di condotta etica. Inoltre, secondo la terza legge di Asimov, il robot deve proteggere, ha il diritto di proteggere addirittura la propria esistenza, purché questo non contrasti con la prima e la seconda legge di Asimov. E abbiamo già visto che così non è. Di conseguenza, se il robot aveva il dovere di proteggere l'umano a cui faceva riferimento e addirittura il diritto di proteggere se stesso, si potrebbe configurare addirittura l'adempimento di un dovere, che è una scriminante sia civilistica che addirittura penalistica, secondo l'articolo 51 del codice penale. Amedeo Santosuoso, siamo in uno stallo totale? Perché? Ah. No, non siamo in nessuno stallo, stiamo cominciando a lavorare sulle regole di queste innovazioni tecnologiche che ci possiamo immaginare che saranno sempre più applicate a livello sociale. Chiaramente se noi ragioniamo, se abbiamo un'idea del diritto come di questa cosa che puzza un po' di naftalina, questa cosa che guarda solo al passato, siamo in uno stallo terribile. Se invece consideriamo il diritto come un modo in cui si regola la vita sociale, quindi si affrontano anche i problemi più nuovi, dobbiamo dire che si comincia a lavorare, abbiamo cominciato, non siamo i soli, noi del centro di Pavia, ma esiste già un modo di porsi questi problemi che è in cammino. Ecco. Sì, che sta evolvendosi. Ecco, e CLT è un acronimo che vuol dire? European Center for Law, Science and New Technologies, centro di ricerca interdipartimentale dell'Università di Pavia sulle scienze, il diritto e le nuove tecnologie. Ed è uno dei centri, non sono mica tanti, non siete mica in tanti a livello mondiale che stanno lavorando seriamente su queste cose, no? No, obiettivamente no, diciamo che a livello mondiale specificamente dedicate a queste cose siamo 7-8, non di più. Quindi poi naturalmente ce ne sono alcuni che sono molto più grossi e altri, noi siamo una piccola realtà ma che comunque è riconosciuta a livello internazionale ormai. Prima di andare in onda, quindi nel preparare la trasmissione, lei mi raccontava invece di una situazione completamente diversa che può essere utile per capire quanto è, come dire, ampio, no? Questo territorio da esplorare dal punto di vista della regolamentazione. Lì parlavamo di guide turistiche digitali. Turistica digitale è una cosa che può essere utilissima, che però da un lato indica dei percorsi che sono predefiniti e quindi lascia poco spazio alle scelte individuali, e per altro verso una volta che le scelte vengono compiute rimane traccia di queste scelte. Allora qui il concetto fondamentale che va introdotto è che se la tecnologia pervade tutta la società e quindi anche il nostro andare in giro per il centro storico di Firenze o di Milano o di qualsiasi altro posto, è inevitabile, siccome la società, anche le persone che vivono, i luoghi, eccetera, sono intrisi di regole giuridiche, altrimenti passeremo tutti col rosso, altrimenti finiremo tutti malamente, allora è inevitabile che la tecnologia entri in contatto con una gran quantità di regole. Questo significa che, per esempio, il diritto alla libertà di locomozione, che è previsto nella Costituzione italiana e in tutte le delle principali costituzioni a livello mondiale, è un diritto che un tempo significava semplicemente non mi porre un ostacolo al fatto che io possa camminare. Oggi nessuno ti pone un ostacolo al fatto di poter camminare, però nel momento in cui qualsiasi movimento tu fai viene tracciato, ecco che la cosa acquista una dimensione diversa, non è un limite fisico, ma il fatto di sapere di essere osservato è un problema. Però questo è significativo perché, per esempio, a livello europeo invece ora sta per essere introdotto un regolamento, il che significa che sono norme immediatamente vincolanti per tutti a livello europeo, dove c'è una cosa assai interessante, cioè si dice che nel progettare degli strumenti di tipo elettronico, quindi database che sono in grado di accumulare grandi quantità di dati, bisogna che il rispetto dei diritti delle persone siano inclusi nella progettazione, definito privacy by design. Allora significa che l'ingegnere che è abituato a far funzionare il meccanismo da un punto di vista tecnico, tecnologico, nel momento in cui il suo prodotto è capace di entrare nella vita di tutti, deve regolare anche da un punto di vista tecnico il modo in cui la macchina riesce a conservare i dati, per quanto tempo, in quale misura elaborarli. Ecco Chiara, per concludere, intanto io dico che voi avete aperto un blog, poi tutti i dati per partecipare a questo blog e quindi al dibattito che voi state suscitando li trovate su una pagina del nostro sito, lo trovate Moebius Scienze in qualunque motore di ricerca, e lì vi diamo tutte le indicazioni per arrivare al blog. Questa cosa che diceva Santo Suosso appunto adesso è piuttosto importante, perché voi state facendo una, no, non è che siete, come dire, atecnologici, anzi fate una chiamata a coloro che producono tecnologia, perché si riesca a fare, no, un lavoro in comune e vedere di anticipare quello che di solito di fatto non si anticipa. Esatto, perché di solito il diritto arriva sempre dopo rispetto alla tecnologia. Invece per una volta sarebbe veramente utile che il diritto seguisse la tecnologia passo per passo, anche perché è inevitabile che prima o poi veramente verranno messi in commercio questi robot avanzati, o ad esempio le città diventeranno intelligenti e interconnesse al 100%. Quindi la chiamata è a tutti coloro, anche che ci ascoltano, che fanno attività di innovazione. Esatto, di incominciare a interrogarsi sugli eventuali problemi giuridici che le loro, diciamo, scoperte, innovazioni possono produrre nella società. Ok, allora quindi sul nostro sito moebiusonline.eu trovate le indicazioni per il blog. Com'era la storia del toro Galileo? Il diritto sa intervenire in modi veramente stupefacenti. Quando il dibattito era sulla clonazione, a un certo punto c'era una proibizione generale di procedere a clonazione, fu messo sotto sequestro il toro Galileo perché era stato prodotto attraverso una tecnica di clonazione. Ecco, il diritto non deve fare queste cose, perché sennò è ridicolo. Però io direi che per una volta c'è uno slogan interessante su una pagina dell'Unione Europea a proposito della privacy, che dice: la protezione dei tuoi dati personali è un diritto fondamentale, la libera circolazione dei dati personali è un bene comune. Ecco, allora bisogna uscire fuori da quest'idea che proteggere la privacy significa paralizzare tutto. Certo. Bisogna fare in modo da bilanciare la protezione della privacy con la libera circolazione dei dati personali, delle tecnologie, delle informazioni, che è un bene comune, altrimenti ritorniamo nelle caverne. Buonanotte a tutti. Insomma, concludo io: state facendo e suggerite di fare un lavoro molto complesso, molto complicato, ma che si può fare e quindi va fatto. Grazie Chiara Boscarante, grazie a Medeo Santosuoso. Arrivederci. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, in questa puntata parliamo di strategie riproduttive, di strategie riproduttive dei pesci. Astute. Però io partirei da un esempio tipicamente umano, e per comodità lo faccio al maschile, ma in realtà andrebbe anche declinato al femminile. Sull'umano, allora, sì. Se un gruppo di amici va in discoteca, è preferibile che vadano con uno bello, un bel uomo, un bel piacente, un bel ragazzone, insomma, un bel ragazzone, e che gli altri, diciamo, lo accompagnino, e quindi Che i bruttini si facciano prendano quello che traino, che effetto è traino. Effetto traino, insomma, si attiri, becchi, diciamo così, quello che becca il quello il lui bello, attira, tu ecco, dici. E poi dopo, insomma, gli altri si spartiscono, brutto da dire, però, i resti. Oppure conviene essere insomma circondati da bruttini e cavarsela per i fatti propri con le proprie capacità. È un grandissimo dilemma. La stessa cosa vale per le donne, eh? Conviene uscire con una bella donna molto avvenente, oppure essere insomma tra donne normali. Delle donne e degli uomini non ce ne interessiamo. Non ci interessa, perché questa volta lo studio è fatto su un gruppo di pesci, sono detti guppi in maniera comune, e invece per i feticisti del genere diciamo che il nome scientifico è Pecilia reticulata, che sono dei piccoli pesciolini tropicali colorati, i maschi, e appunto proprio il fatto che i maschi siano colorati vengono considerati più belli, cioè più attraenti, ecco, dal punto di vista riproduttivo dalle femmine. E chi li ha studiati, il Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova, ha trovato delle conclusioni che insomma interessanti, che adesso ci racconta. Quindi abbiamo con noi Andrea Pilastro. Buonasera Pilastro. Buonasera Pilastro. Lei appunto fa parte del Dipartimento di Biologia dell'Università di Padova e avete osservato che cosa su questi pesci? Noi appunto sapevamo che le femmine preferiscono i maschi più colorati, e tra i maschi c'è una grande variabilità. Ci sono maschi veramente molto colorati, maschi con caratteristiche intermedie, maschi bruttini, poco sbiaditi, un po' bruttini. Questi ultimi hanno poche possibilità di accoppiarsi, e però quello che noi avevamo scoperto precedentemente è che le femmine si comportano diversamente con un certo maschio a seconda che l'abbiano visto in precedenza in compagnia di un altro maschio più o meno colorato di lui. Ecco. E cosa scelgono? Se un maschio, diciamo, con caratteristiche intermedie, per semplificare, viene osservato dalla femmina vicino a uno poco colorato, e poi la femmina si accoppia con questo, da una serie di misure comportamentali abbiamo capito che la percezione che le femmine hanno di quanto un maschio è attraente è influenzata dall'esperienza precedente. Quindi quello medio, ha fatto bene a andare coi bruttini, esatto, perché ha portato allora a casa. Allora questo fa prevedere che, siccome, diciamo, con chi la femmina ti ha osservato prima di accoppiarsi ha un effetto, ha un'influenza, si può prevedere che i maschi adottino, cambino il loro comportamento a seconda della situazione. E se possono scegliere tra due femmine, una delle quali è circondata, diciamo, da maschi super colorati e l'altra invece da maschi poco attraenti, quello che ci si aspetta è che il maschio scelga di corteggiare la femmina vicino alla quale ci sono maschi poco colorati, diciamo dei competitori poco pericolosi. Cioè, effetti, questo è quello che abbiamo trovato. Il gruppo dei maschi così un po' intermedi funziona bene per il maschio bruttino, perché lì trova delle femmine con le quali accoppiarsi. Sì, esatto. Le femmine in quel caso vedono quel maschio medio come più attraente di quanto non sia in realtà, perché lo confrontano con i maschi. C'è un effetto così, insomma, di contesto, un effetto sociale in fondo, come dire, ci si fa una ragione di come vanno le cose, insomma, di com'è il gruppo. E imparano anche dall'esperienza. Sì, infatti, perché abbiamo fatto lo stesso esperimento con maschi, diciamo, che avevano avuto un'esperienza normale, quindi che si erano accoppiati con femmine, erano stati accettati, rifiutati, in presenza anche di altri maschi, e quindi avevano in qualche modo potenzialmente messo in relazione i loro successi o insuccessi con gli altri maschi con cui competevano per corteggiare la femmina, con un gruppo di maschi invece che aveva avuto le sue esperienze, quindi erano stati tenuti con le femmine ma in assenza di altri maschi, e che quindi non avevano potuto mettere in relazione i loro eventuali successi o insuccessi con la qualità, la colorazione dei concorrenti. Non avevano fatto esperienza da quel punto di vista. Esattamente, questi ultimi in effetti discriminano meno, cioè abbiamo usato questo acquario in cui potevano scegliere una femmina o l'altra, e questi sembrano meno abili nello scegliere la femmina giusta da correggere. E poi l'altra cosa interessante che abbiamo visto è che i maschi che sono di per sé molto colorati corteggiano indifferentemente le femmine che hanno, come dire, nelle vicinanze, ignorando la qualità dei concorrenti. E certo, i belli, a loro, si dire, buttano probabilmente sempre. Va bene o male per altre ragioni, mentre quelli poco colorati stanno molto più attenti, infatti, si tengono alla larga. Infatti, diciamo, sui belli non avevamo dubbi, insomma, che avessero comunque successo, indipendentemente dal contesto. Ma i brutti, cioè gli sbiaditini, come si comportano a quel punto? Anzi, a seguire da questa domanda, vorrei sapere, ma voi degli esperimenti in cui ci sono solo bruttini non li fate? Sì, beh, se una femmina, come dire, le femmine di questo pesce sono... partoriscono piccoli vivi circa una volta al mese e subito dopo il parto si riaccoppiano con altri maschi, due, tre maschi a seconda. Ecco, in questa fase di recettività, diciamo, sessuale, se una femmina viene presentato un maschio, molto spesso si accoppia anche se questo è poco colorato. Quindi ci sono delle condizioni in cui, se le femmine non hanno alternative, prendono quello che hanno. Sì, però voi siete furbi. Altrimenti questi maschi poco colorati, come dire, scomparirebbero dalla popolazione. Qualche chance di accoppiamento ce l'hanno, però è limitata ai casi per loro di disperazione della femmina. Certo, esatto. Voi potreste fare esperimenti, ma in natura non ci sono gli esperimenti. Insomma, i mari per bruttini non ci sono. E in natura è tutto più difficile. È tutto mischiato, sì. Bisogna controllare una serie di... Ma anche per parametri. Noi, mica ci sono le discoteche per i bruttini, no? Non direi. È uguale. No. Però la cosa che avete detto all'inizio è giusta, perché in effetti in altre specie, negli uccelli in particolare, succede proprio l'opposto, cioè i maschi formano una specie di arena nella quale si raggruppano e cercano di attirare le femmine, e lì in quel caso si suppone che i maschi meno attraenti si tengano nelle vicinanze, proprio perché cercano di sfruttare qualche femmina che passa lì e attirata dal maschio, esatto, bello. Quindi in quel caso la strategia è quella di andare in discoteca col maschio bello per questi uccelli. Sì. Mentre nel caso dei nostri pesci direi che la strategia è quella opposta. Piacerebbe avere l'opinione degli ascoltatori, va bene. grazie davvero Pilastro, buon lavoro, ci faccia sapere se viene fuori qualcos'altro. Sui bruttini. Grazie a voi, buon lavoro. Buonasera. Buon lavoro Pilastro. Ci sono fatti molto semplici da analizzare se si lasciano da parte le tante interpretazioni intuitive e si usano un po' di numeri. Un tema di costante attualità è la grande manifestazione a Roma. Sono anni che periodicamente l'evento si propone e sono anni che durante questo evento c'è qualcuno dal palco che pronuncia la frase «Siamo 3 milioni», più modestamente «Siamo 1,5 milioni», accompagnato da boati di entusiasmo. Dunque, nessun giudizio sull'importanza di questi momenti che sempre ci segnalano come, pur con tutti i nostri acciacchi, ci si trovi in un paese dove la partecipazione democratica è un dato permanente. Però, il dibattito sulle cifre, questo sì, deve cambiare. I primi numeri che appaiono in vista del grande raduno romano solitamente sono i seguenti. 14 treni speciali da tutto il paese e 700 pullman, una roba così. E poi ci sono tutti quelli che arrivano nella capitale con le auto private. Ma io qui voglio andare oltre e simulare una situazione molto più robusta. I treni, per esempio. Facciamoli passare da 14 a 140. Ogni treno porta in media 1500 persone, quindi le ferrovie ci daranno un contributo di 210.000 manifestanti. Ora i pullman. Qui dobbiamo fare il ragionamento seguente. La distanza Milano-Roma è di 585 km. Supponiamo che si arrivi a Roma da 4 direzioni diverse, tutte pari a una lunghezza di 585 km. Sappiamo che non è così, sappiamo che è uno scenario eccessivo, perché in larghezza il nostro paese non si presenta con 1200 km, ma non importa. E immaginiamo pure che lungo queste 4 direttrici, il giorno della grande manifestazione, la mattina presto, si mettano in moto tanti pullman da averne uno ogni 200 metri di autostrada. Un pullman a tre assi è lungo al massimo 15 metri. Se fate un po' di conti, vi esce una cifra di 2720 pullman per ognuna delle 4 direttrici. I pullman più capienti portano 93 persone.